life is away till I feel alive again.

Thank you.

dipingi di sole anche se non c'è. Finisco io e cominci tu il sogno.